la lampadina non è stata inventata perfezionando all'infinito la candela. Ebbene, si conclude qui questo speciale Smart City dedicato alla mobilità del futuro. Nella puntata di settimana prossima ci occuperemo di rifiuti. Una delle partite più importanti in questo ambito, infatti, riguarda la possibilità di identificare nuove filiere che permettano di regalare una seconda vita a materiali o manufatti altrimenti destinati allo smaltimento. Dalle piume di pollo ai tessuti tecnici ospedalieri, le sperimentazioni sono moltissime e noi ve ne racconteremo alcune delle più interessanti. Appuntamento a sabato prossimo, sempre alle ore 14:30, oppure a domenica con la replica alle ore 23:30. Da Maurizio Meris, buona continuazione su Radio 24.